Oh, questa è, no, quello io faccio è... il tifo per una riforma del sistema sanitario italiano, più che per vabbè, perché, ma perché lo consideri pazzo? È questo che è la cosa. No, tu lo consideri pazzo? Questo, fatti, questo... Io voglio incontrare tutte le persone che, normale, vanno, che vanno a cacare in Rai. Quei parassiti! Ma perché c'è la Rai adesso? Quella brutta gente! Ma tu adesso guardi, non pensi che nomi, talmente che sono ributtati. Ma dimmi un nome, dimmi un nome, dimmi, con chi ce l'hai? Dimmi un nome. La Berlinguer, per esempio, fa un programma bello adesso su Rai 3. Bravissima, Bianca Berlinguer. Berlinguer, se permessi di dire alla Meloni, clandestino lo devi dire, io a posto della Meloni sarei saltato addosso alla Berlinguer, gli avrei strappato il seno con i denti, l'avrebbe ricordato per tutta la vita, tu non puoi dire che è clandestino. Ma è un criminale, ma scusa, ma perché non puoi? Ma perché non ho querela nessuno più ormai? Ma querelarmi ti va nel culo! Ma bandito! Scusa, non ho capito. Sei un bandito! Io? Sei un bandito! Adesso bandito! Sei un bandito, ricordati! E ringrazia i tuoi banditi che ti hanno messo lì! Ricordati! Ringrazia i tuoi banditi! Ma chi sono? La tua pletora di assassini! Ma chi sono? Criminali! Ma io sono assassino! Sono criminali! E tu sei assolto dei criminali! Ma quali sono i criminali? Scusa, Donato! Scusa, non ti puoi fermarlo! Vergognati! Non riuscirete a rovinare l'Italia! Tu, Cruciale, ti rendi conto che se io davvero lo querelassi per le cose che ha detto, persone, però lui è criminale, però lui è Donato è, sì, è un, no, ma tu però rispondi, io sono, sì, ti rendi, sì, conto, gli toglieresti se la vita, io, sì, no, voglio dire, ti converrai con me che io qualora decidessi, ma non lo farò perché è infermo di mente, di querelare, non gli dire, sì, così, no, adesso, ma totalmente, lui è uno dei grandi predicatori, come ma i grandi, secondo te, ma secondo te avrei qualche appiglio, no, dimmelo, darsi, tu, ma i grandi predicatori come può darsi, ma che cosa ha detto, criminale, assassino, figlio di pupanna, voglio dire, ma però è uno dei grandi, allora, come esistono, cosa? Scusami Donato, come... dimmi Donato, dimmi. È inutile che mi fai parlare gentilmente e te ne vorrò bene per tutta la vita, perché sei l'unica a farlo. No, no, ma io ti considero, no, allora, ma lascia perdere, io ti considero. Io parlare in due minuti, no, no, che devo gridare, io sono l'uomo che parla con calma, e se io vedessi davanti adesso questo lurido, lo farei sciogliere il suo putridume, sarei io lo farei anchilire, ci capisci che odio che sono gli italiani, lurido sono sempre, allora, giusto. Questo odio gli italiani, però gli italiani, questo mi odio, e ce ne sono tanti, italiani, compreso quel, però, porco, quell'ultimo governo, sempre io sono, ah, Gianfranco, ci sono detto giustamente, sì, soltanto siamo, quando si guarda allo specchio, no, siamo andati bene, riesce a capire, stai, che è vivo, siamo andati, siamo nella merma, siamo, ci siamo, siamo nella merma, siamo, il signor Vendola, e il signor Vendola, che come essere ucciso, pure Gentiloni ucciso, pure Gentiloni ucciso, tu hai contribuito all'eliminazione di Renzi, ma adesso questo è un delirio, no, ma noi siamo al delirio, dai, però, perché, scusa, la gente quando ha detto che Renzi è un assassino, un alcuni assassino, non erano stupidi, ma Renzi, sai che se ti, ti hanno seguito, cioè, ti hanno seguito, ma tu sai che se qualcuno veramente lo querelasse, questi qui farebbe, io non faccio una cosa, ma bisogna ammazzare pure Gentiloni adesso, non mi dire, ma Gentiloni cos'è, ma Gentiloni non è nessuno. Ma Gentiloni, cosa, è una sguatta di un vecchio, ma un perché vecchio nessuno lo querela? Ma lo, vabbè, veramente è incredibile, hai però hai imparato quelle quattro cose, ma quando mi ha lavorato quel porco, ma è uno, no, schifoso, no, sto Donato da Varese, è una persona schifosa, scusa un attimo, ma non, Donato, puoi, scusami un attimo, ma la cosa che voglio sapere è un tuo giudizio su Vendola, che dice che vuole avere un, ma secondo, dai, ma cosa vuoi che un secondo dica su questa roba qua, un secondo, Vendola morirà, no, ancora questa roba, guarda che incredibile, no, perché è una persona schifosa, Donato da Varese è schifoso. Lui e la marita. Come lui, che è il moglio. Vabbè, il moglio. E la moglie e la marita. Quella è canadese. Che c'è? Farà il cazzo. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Che schifo. Ma chiudilo. Ma fa schifo. Fa gli islamici. Ci mettiamo il cazzo e te lo mettiamo in bocca. Gli islamici. Perché questi sono gli islamici. Lui dice, ricordatevi, lui dice che gli islamici lo ammazzano. Si sta islamizzando. Già mi hanno mandato dei messaggi pericolosi. L'Italia si sta, va bene, Donato, ciao, ciao, schifo, ciao. Ma come va bene, ma come va bene, ma basta, ciao, ciao Donato, ciao, ciao. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi, vabbè, però io l'avevo detto, eh, e Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta, ecco, a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche

Cosa è insultico? Naturalmente, dice. Certo, naturalmente. Senti, la democrazia tutta è stupida. Tutta la settimana io sparo. Tutta la settimana lui spara. Tutta la settimana, certo. È vero che gli immigrati sono spazzatura? Poi, polacco, traduci questa cosa. Lui ha detto una volta: gli immigrati. Se vedo pana, emigranti sono sciamiciani. Nie, nic takiego nie powiedziałem. Powiedziałem, że wszyscy, którzy żyją w zasiłku socjalnym, to są śmiecie. Ha detto? Non ha detto una cosa. Ale tak powiedziałem śmiecie, to jest, nie wiem jakie jest tłumaczenie. Lui ha detto che tutti quelli che vivono alle spese dello Stato con i soldi che prendono di sostegno sono la spazzatura. Ah, ok, beh, è uguale, cioè, praticamente. Tutta l'America, l'America era costruita per gli immigranti, ma questi immigranti hanno lavorato, non hanno gli sposi. Chiedili se Hitler una volta ha detto che Hitler non sapeva dell'Olocausto, se lo conferma. Pyta się, czy to prawda, że pan powiedział, że Hitler nic nie wiedział o Holokauście? Nie, powiedziałem, że nie ma na to dowodu. Jeżeli pan ma dowód, to jest nagroda 150 tysięcy funtów brytyjskich. Jeżeli ktoś ma dowód, niech przyniesie, pokaże dowód. Nie ma dowodu, że Holokaust istniał? O tym pan mówi? Jeżeli ktoś ma dowód, że Hitler wiedział o Holokauście, to niech leci do Anglii, bo tam jest nagroda 150 tysięcy funtów. Traduzione, vai. Ok, sta dicendo che non esistono le prove che lui era al corrente della esistenza dell'Olocausto. Ma come, non l'ha ordinato lui? Se esiste qualcuno che può provare tale fatto, c'è un premio 100.000 sterline in Inghilterra che può vincere qualcuno che porta le prove. Auschwitz c'è stato! Auschwitz! I am Jewish. Yes. Ma but... no, yes, un cazzo. I am Jewish. Auschwitz. So what is the problem? Auschwitz. But. Ma you know what is? A cacciatelo via. Io non. Ma io questo lo mando via. Ja im powiem po polsku i mam się tłumaczyć. Otóż Hitler nie wiedział nawet, i to są dowody, że ma trzy dywizje Ukraińców, Kazachów i tak dalej. Cadeto. Sta dicendo che non solo non sapeva niente dell'Olocausto, ma anche dei problemi con altre nazioni. Ma scusa, è stato un buon statista, che... dilli se è stato un buon statista Hitler, chiedi, veloce, rapido, è stato un buono statista o no? Vai, rapido. Grazie, ci vedo pana, Hitler był ważną osobą w historii. Ma come non sa, Hitler ha fatto la soluzione finale. Che ha detto? La soluzione finale. C'è possibile e molto probabile che non so perché il Ma come leader, non sapeva? L'ha pianificato? No. Viva la Polonia, viva non era nell'Auschwitz, Nunca, mai. Era nell'office? Sono basito io. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presento La Zanzara. Parenzo, è inutile che fai finta di non sapere come si chiamano le pornostar, che con quelle occhiaie che ti ritrovi sei sicuramente uno che si sfonda dalle pippe, segaiolo! Comunque qua che state sempre a dire che il matrimonio riduce l'eccitazione eccetera eccetera, non è vero, perché se vostra moglie o la vostra compagna o quel che cazzo sia è una gran porca, l'eccitazione non si abbassa manco un po'. Allora, grande ritorno alla Zanzara, Lori del Santo, buonasera! Ciao. Come andiamo? Ma siete dei tipi strani voi? No. In che senso? Scusa. Non lo so, trattate argomenti in maniera alternativa. Ma no? Quello no, sicuro, quello, su quello non c'è dubbio. Su quello, siamo molto espliciti, diciamo, nel linguaggio. Lo so che lei, intanto grazie per essere una grande esperta di legge elettorale. Le volevo chiedere questo, il dibattito che c'è oggi in Parlamento... sulla presidenza della Commissione Affari Costituzionali. Ma non sa niente, giustamente non sa niente. Che idea si è fatta lei di questo? C'è l'appello al Quirinale fatto sa appunto... Sa che cos'è la legge elettorale, signora del Santo? Sì, ma guarda, quella legge lì tentano tutti di farla, ma non ci riescono, perché troppe teste in una stufa, capisci? Bruciano tutte. Sì. Sì, ma ha ragione, però è molto meglio di autorevole, in, sì. Però in tre secondi dicendo tutti quanti tentano sì. di farla, ma non la fa nessuno. No, è impossibile, perché devono trovare una convenienza per tutti. Certo. Siccome sono più di mille. Ma ha ragione lei, ma lo vedi è che la tu nostra Angelo Pane Bianco. Ma tu scusami, la pigliavi sì. era una presa per il culo quella no. che volevi fare, perché no, pensavi no, no. fosse impreparata. No, invece ci ha rialzato, ti ha detto in due secondi, ti ha detto certo. tutti quanti hanno la loro convenienza, tutti quanti vogliono il loro tornaconto. Non è una legge fatta per i cittadini che non vogliono andare a votare ogni tre secondi, che hanno altro da fare, e invece capito questa è molto buona, questa si è molto rischia buona. Di votare ogni due anni, ogni anno certo. e mezzo, basta, ma dateci una tregua, quattro anni e per quattro anni ci teniamo che c'è, ma deve essere certo, invece così ogni tre secondi molto cade bene. Uno non c'è la maggioranza, votano gli altri il contro, cioè, ma del è santo, un incubo. Scusi, lei quanti furti ha subito recentemente? Recentemente uno, dove sono arrivati a casa mia in quattro sì. uomini sì. tipo atleti, però che si sì. sono quasi lanciati per un metro nel vuoto per raggiungere una ringhiera, devo dire abbastanza spaventoso. Che hanno rubato? Lei era in casa, signora? Grazie a Dio, no, ero uscita per cena, ma mi studiavano, secondo me c'era anche un palo fuori, sì, uno che faceva il palo, sì, il palo. Ma che hanno rubato alla fine? Sono riusciti a rubare delle cose che c'avevo in una stanza, perché sì. avevano hanno buttato sì. però poi non sono più riusciti a proseguire sì. Perché c'è stato uno sventato dalla portiera che ha sentito dei rumori sì. perché per spaccare la porta, una doppia sì. finestra sì, e poi certo. per spaccare l'allarme nella notte si sono sentiti questo rumore e lei ha urlato, le hanno fatti fuggire, ecco, non c'erano le telecamere, io consiglio a tutti una telecamera, di mettere gente... le telecamere negli ascensori, fuori dagli ascensori, nei pianerottoli. Beh, amica mia, però non tutti, comunque, non so. Però lei, sparerebbe, lei sparerebbe, ha detto più volte in questi giorni, lei spara. No, io questo non l'ho mai detto, no. Io ho detto che chi uccide facendo una rapina eccetera deve avere la pena di morte. Pena di morte, sì, così perché sì. Ti spiego perché oramai uno dice deve andare in carcere tutta la vita, ma oramai i carceri non c'è posto, sì, dovrebbero bene, costruire sì. un carcere ogni 2-3 chilometri. E poi cos'è che magari questi escono un po' prima e poi ti vogliono invece chi vendicare. Uccide, chi uccide con una rapina pena di morte? Sì, assolutamente, chi uccide se con prove certissime, ecco, ma che tipo di pena di morte lei preferisce? Che cosa dovrebbe fare? Stavo pensando, secondo me in piccagione buono, sì, come quando hanno giustiziato il leader eccetera, sì, perché leader non c'è sangue. Chi leader, dice lei? Sì, quando hanno impiccato signor Saddam Hussein, che... esatto, l'hanno impiccato. E voglio dire, non c'è sangue. Non c'è sangue. Beh, oddio, non c'è sangue, però certo, un po' brutale. Beh, piccagione non c'è sangue. Perché il punto è questo: se tu uccidi sì. un innocente sì. che ha lavorato tutta la vita per mantenere la sua famiglia, sì. per avere una vita. Meriti di crepare. Ma scusa, ma perché tu, che sei un delinquente, hai il diritto di togliere sì. la vita a una persona che ama la vita? Ma anche in piazza? Tu puoi fare quel cavolo che vuoi. Anche in piazza l'impiccagione, direi, no? Cioè, per rendere sì, la cosa. Ho pensato all'impiccagione perché sennò ci sono. Quelle siringhe oppure dovrebbero dare delle pastiglie che ti portano a morte. Però l'impiccagione è anche più visibile, uno vede come muore, cioè un ladro è anche ma un sì, esempio, no? Essere un segnale chiaro. Segnale cioè, chiaro, chiarissimo. Se tu entri nella proprietà privata puoi rischiare la vita, punto. Allora ti conviene non entrare. E dunque proprietà privata è privata. Ma questa impiccagione in piazza la vogliamo fare pure? Certo, mi ricorda un po', certo. sai, i tempi addietro, ti ricordi sì. quando tutti andavano in queste specie di cose di piazze contro le cose, l'impalcatura di legno. Però se, può servire no, come esempio, diciamo, no? No, senti, allora, togliere la vita a un innocente ingiustamente sì. solo per arricchirsi è una cosa orrenda. Bisogna che questi agire in questo paura. Modo, certo. Devono certo. avere paura, devono non si può più. Questi oramai vanno sapendo che ce la faranno, che tanto nessuno si può difendere, se ti difendi Parenzo, devi anche pagare di fronte poi... a signor Lorenzato è a favore della pena di morte con l'impiccagione in cose, piazza, dice quelle cose con un tono di voce anche talmente, come dire, apparentemente dolce. Senta, cambiando argomento, signor Lorenzato, secondo lei Trump lei che ha incontrato da vicino, l'abbiamo raccontato sì. più volte eccetera, certo. ce l'ha piccolo o grande? Ecco che domanda importante. No, me lo sono chiesto, ma in realtà non ho visto. Secondo me siamo sulla media via, perché nessuno ha mai, nonostante tutte le donne che ha avuto, nessuno si è espresso in maniera evidente per denunciare, cioè, questa... È normodotato, secondo lei? Normale. Normodotato. Sai, ma le donne in nomini così non guardano neanche come ce l'ha, perché beh, basta che sia ricco. Che beh, se anche, ne lei, anche lei spesso guarda la ricchezza, bene. No? Anche lei spesso guarda la ricchezza. Diciamo ma le la ricchezza è una cosa, poi quella cosa lì delle dimensioni, se non va bene trovi altro, trovi altri motivi, cioè è più altre, altre persone che sono più, magari è più importante la ricchezza, diciamo, che la dotazione, no? Ma che... secondo me sì, per vivere a un certo livello non c'è dubbio, perché poi comunque le misure si trovano da altre parti, si possono trovare da altre è parti. È un bel messaggio da trasmettere ai giovani, uomo, bello. Lei ha detto una cosa molto giusta, signora Del Santo, spesso le donne guardano più, anche lei, più alla sostanza che alle dimensioni, che sempre sostanza è, però un altro tipo di sostanza. Cioè un uomo strutturato, ricco, con una professione, anche se magari insomma a letto non particolarmente dotato, non particolarmente prestante, beh, chi se ne frega. Intanto ci rassicura su un lato, poi le prestazioni sono altre. Luciani, quando ha chiamato lì Milly la prostituta di 65 anni, poi lei ti ha detto che la sua specialità è lo squirting e te non hai capito più niente, vabbè, ma non hai sentito, non hai colto, dopo che ha detto anche rimming, indaga Cruciani, indaga, rimming. Chi non lo sapesse, caro David, quell'espressione lì, rimming, è una specie di rasti trombone al 50%. Dottore, prende sempre a quest'ora il maltini bianco con ghiaccio, no palla polchelì, clinting, non palla polchelì. Abbiamo con noi Lori Del Santo. Eccola, molto bene. Ciao. Eccoci qui, che a 60 anni vuole addirittura un figlio. Sì, io voglio sempre cose nuove. Sì, però amica mia, a 60 anni mi pare un'esagerazione, adesso francamente. Ti potresti... No, non ci sono esagerazioni in questo campo, 60 il futuro anni, mi darà ragione. 60 anni un figlio, ma basta, come si fa a avere figli a 60 anni, Lori, dai. Ma i figli portano sempre tanta felicità, sì, d'accordo. Basta avere il tempo di occuparsene. Rivolgiti al professor Antinori, che è un esperto in questo campo. Mi rivolgo... Vuoi fare la fecondazione assistita? Vuoi fare la cosa? Ovviamente fare sì. Tutto il fattibile. Ma anche quello che ha fatto Vendola, l'utero in affitto? Senti, adesso tutti possono avere i figli, basta decidere. Vedi, anche Ronaldo ne ha due in arrivo. Per cui tu sei favorevole a tutto, a costruire anche un bimbo Ricky in fabbrica. Ricky Martin, anche lui c'ha i figli. Ecco, ma tu come lo vorresti? Lo sai che lo puoi scegliere pure in un catalogo? No, praticamente. Sì, lo puoi scegliere praticamente in un catalogo. Una roba da cioè, i figli sono delle cose che uno deve amare. Ecco, ma come lo vorresti? Sono delle persone, non delle cose. No, d'accordo, ma come lo vorresti? Cioè, magari lo vorresti biondo, lo puoi scegliere oggi praticamente. Sì, io vorrei una roba nordica, una perché roba. Deve assomigliare un po' a chi? Un po' a comunque, per capisci, nordica. Sì, ho sempre avuto questa idea, mi piace l'idea del capello ariana, un po' chiaro, ariana, sì, quasi ariana, un po' azzurro, ma non è un supermercato, verde. Signora mia, sì, però. Si può fare anche quello, si può scegliere, è sbagliato, sì, non è un supermercato, ma si può scegliere un corno, non è un supermercato, cara signora Del ma Santo, ma perché... di supermercato, e come sì. No, dice voglio il mercato primavera, però. Non sarà voglio supermercato, ravioli, è il mercato, ma che è una porcheria. Ma scusa, una volta i genitori non si possono scegliere, ma almeno si possano scegliere i figli, sarebbe bello. Ma sarebbe straordinario. Io sono, bello, una io cosa sono dell'opinione della signora Lori Del Santo. Una cosa, ma non avevo dubbi. Per no, forza. Ma no. Quando c'è da sostenere delle cose agghiaccianti. Perché ci sono tanti sì, bambini importante. Che hanno bisogno di qualcuno che li ami. E perché non li adotta lei un bambino? Appunto, scusa, perché non ma prova ad adottare qualcuno. È e più poi facile. Vedi. È più facile. È impossibile. È meglio andare all'estero e scegliere. E sì, scegliere, diciamo. Al supermercato, praticamente. Cercare altrove. Sì, sì. Il mercato. Ma non è l'IKEA, signora, avere dei figli che uno dice lo voglio così. Tanti bambini che sono negli orfanotrofi da soli, che appunto. Poi appena escono non hanno nessuno. Cioè è terribile. Scusi, ma è giusto secondo lei che uno che una donna lei ha detto prima un concetto molto semplice, meglio uno ricco piuttosto che uno diciamo prestante e però povero, su questo non c'è dubbio, no? Lei dice ma perché tanto dipende se è per un attimo o per la no, vita, stiamo parlando per un periodo per della un periodo, vita, perché per un... non c'è niente per la vita secondo no, me. No, certo, non c'è niente. Ecco, io è dico... meglio la serenità di non dover pensare a pagare la luce, il gas, che dunque, è sempre più caro. È giusto anche, come dire, darla via per lavoro, diciamo, per una questione di è un'espressione molto brutta questa. questa, capisco. Cioè, no, per fare, fare sesso per oramai ottenere un lavoro. Non funziona più neanche quella roba lì di dare per il lavoro. Guarda, nessuno ti dà garanzie oramai. Niente, ormai la danno tutti via. Vogliono consumare gratis. Questa è la addirittura verità. Tutti vogliono consumare gratis. Sì, sì. Non esistono pasti gratis, diceva un grande economista come lei. Lei, sa, signora, no? Signora Del Santo, sa che cos'è lo squirting? Ecco. Sì, è quel ballo dove muovi il sedere. No, non esattamente. Anche possibile... Non è un ballo, è quella cosa. Possibile mai che lei, che è stata in America, eccetera, è anche stata con Gradini, non sa cos'è lo squirting? Vabbè, non ho lo sbagliato? Sa. Quello, ma che no, ti muovi tipo convulsamente. No, non è esattamente così. È una pratica, no, sessuale. Chiamasi squirting. Vabbè, adesso... squirting. No, io lo voglio sottolineare. Lei non sa che cos'è. Lei però... ma che... sì, ti metti dietro, fai finta di fare. Ma no, amica mia, è l'eiaculazione femminile. È l'eiaculazione femminile, oh, quella pronunciata, in stile getto, diciamo. In stile... sì, tipo... tipo veloce, una roba. No, ma una cosa che esce fuori, tipo getto, capito? Ah, pronto in voltino, dottore, pronto in voltino, tavola subito della fledda, tutto. Lei, e la fledda Lisa Cantonese, Lisa Cantonese. Mi cade sulla BC. Sì, forse mi confondo con qualcos'altro. Ecco, in forse, ogni caso, sì, forse. Bocciata, bocciata. Di cosa bocciata. Di quel genere, insomma. Bocciata, bocciata, bocciata. Sì. Arrivederci, grazie, arrivederci. Ciao. Grazie, ciao, molte. La zanzara. Luciani, io vivo un vero e proprio dramma. La mia ragazza è nera, di destra, vota Salvini e io faccio parte della maggioranza silenziosa. Parenza, aiutami tu! Allora, caro David, allora, sì, ma tu, ma a te pare normale una cosa, no? L'altro giorno un tizio, un burocrate europeo che nessuno conosce, il signor, sì, Dijsselbloem, no? C'è stata tutta una discussione, nessuno conosce, lo conosci solo tu forse che ti occupi di queste cose. Sono sicuro, per esempio, che il signor Calcutta, che mi sembra sia accanto a te da quelle parti, o sbaglio? Sono qua, sono qua. Sì, lei conosce il signor Calcutta, il signor Dijsselbloem? Sì. Conosce, no, chi, no, è? Giustamente, no, lei non sa chi è. È un cantautore Calcutta, lei che deve conoscere. Ma bravo, bravo, hai ragione, ma non lo so manco io, non sapevo manco chi fosse questo qua. I giornali, il signor Dijsselbloem mi ha detto che gli stati del sud, cioè del sud Europa, spendono troppo in alcol e sess, no, in alcol e donne, in alcol e donne. Questo ha detto, e tutti quanti ad attaccarlo, giustamente, perché ha semplificato le difficoltà di una, certo, parte dell'Europa, no? Oggi la signora Boldrini, poi uno dice ce l'ha sempre con la signora Boldrini, la signora Boldrini ha detto Dijsselbloem è un sessista, ma non è un sessista, è semplicemente un coglione, cioè non è un sessista, sì, è semplicemente un coglione, perfetta, cioè sì, essendo un coglione, cosa c'entra il sessismo solo perché ha detto spendono in donne? Ma è normale dire una cosa del genere? È una semplificazione, ma essendo un coglione ha detto una minchiata. Ma la signora, questo tizio è un olandese, credo che sia olandese, un olandese che è un alto dirigente europeo, il capo dell'Eurogruppo, sai, tutte queste istituzioni europee. Sì, sì, okay, ma tu non ti interessi di queste cose, no? Riesco non a immaginarmele. Sì, riesci a immaginarti nella loro mostruosità, immagino. Nella loro enorme mostruosità. Nella loro enorme mostruosità. Signor Calcutta è un grande emergente. Infatti, come vedi da Twitter, il popolo di Twitter, cioè la maggioranza silenziosa, conosce il signor Calcutta, conosce Oroscopo, conosce i suoi capolavori, perché è un giovane artista che va valorizzato. Cioè, giovane. Beh, giovane, già. Ma che giovane? Per esempio, il signor, per esempio, il signor Pardo è un grande ammiratore di Calcutta. Ogni volta mi fa una testa così con sto Calcutta. Lo conosco, Pardo dice sempre Calcutta numero uno. Sì, Calcutta. Sempre così. Io pensavo che Calcutta non sapevo chi fosse, io sono ignorante a questo punto di vista. Ma tu non sai neanche chi è Fellini, perché tu no, sei Fellini una capra, l'unica cosa che sai è di sesso anale e di transessuali nella radio della Confindustria. È l'unica tua no, materia. No, non è vero, non è vero, non esagerare. Non esagerare. Va bene, ragazzi, però c'era Lores, dov'è? Sparita Lores? No, io vorrei che il signor Calcutta parlasse con questa decorticata mentale

come ritiene la signora Lorest questa decorticata che ha appena parlato? Sì, ho capito. Alla fine la trovo abbastanza gentile, dai. Come gentile? Ma no, giusto, boh, vedi, non so, vedi. Magari, non lo so, magari vive una vita stressata, non so. Cioè, so. Un po' lei dice che ha qualche... Cioè, bravo, qualcuno, vive una vita stressata. Ha qualche problema. Non arrabbiarsi così tanto nel 2017 per determinate... Cioè, ma per tutto in generale, bisogna... Uno bisogna... Lei si fa molte canne, signor Cacuta, si fa le canne lei? Bah, ogni tanto. Ogni tanto. Possiamo dire una cosa, perché io sono d'accordo. Possiamo dire che le canne fanno meno male dell'alcol? Beh, sicuro. Sì, però sì, sì. Sì, sicuro, lo possiamo dire. Però non bisogna consigliarle in generale, no, le canne, o sì? O ma si non lo so, in realtà io non lo so, penso molto, diciamo, a quello che faccio io, cerco di... Capite? Sì. Tenere il mio equilibrio, anche se è un po' strano, però comunque lo sostengo. Sostiene cosa? Allora la signora, dai, si dovrebbe calmare un attimo. Sì, Lores... Non è fegato così, ma... Dai... Sì, cioè dici, no, alla fine può finire male così, se va ma avanti così. Perché comunista, che c'entra? Cioè, nel senso di... Ma no, sei giovane, poi il comunismo... Poi sono di Latina, io non è proprio... Se un ladro entra dentro casa tua, caro Calcutta, tu come reagisci? Gli apri le porte oppure... Non lo so, non mi è ancora capitato e tra l'altro mi sto grattando in questo momento. Bravo, grattati a pelle anche. Sempre a pelle, bisogna grattarsi, se no non vale, da sopra non vale. Sempre a un'altra cosa. Cioè cosa? Cioè che bisogna grattare solamente una parte. Vedi come entra nel dettaglio. Solamente i coglioni, dici te, solamente i coglioni. Se becchi altre parti del corpo sei fottuto. Il manager si è suicidato definitivamente. Questo, 20 minuti di Zazara, il questo, è molto, questo è molto buono. Anch'io quando devo toccarmi credo vado sempre direttamente sui coglioni, ma questo è fondamentale. È meglio comunque. Senti, tu ogni tanto ti fai... stai ore e ore con i tarzanelli? Bellissimo, cioè, Calcutta con i tarzanelli. Ma come, i tarzanelli? Sai che sono i tarzanelli? Cioè, fissato, la classica sgomma... Cioè, sì, voglio... sì. No, sei uno che si lava o no? Si cambia le mutande o no? Sì. Ti lavi, a volte non le metto, per non cambiarle. Ah, spesso non le metti, Sì, perché ho trovato proprio che sia antigenico mettere le mutande per un periodo. Poi adesso ricomincio da me. Questo è buono. Molto in comune con la Lores, credo. Questo è buono, senza mutande, signor Calcutta. Senza mutande, molto buono. Ci sono molte persone che vanno in giro senza mutande, non è una... Sì, che senti, escono ogni giorno. Senti, oggi tu in Italia, se dovessi scegliere chi voti? Sì, ecco, no, io non voto. Ma adesso tutti a dire così, mai. Ma perché non c'avete i coglioni per dire, tu c'hai 26 anni, ma che te frega, dici sì, no, voto? Veramente, io ho votato una volta alle... che era tipo dei comunali a Latina, poi è andato il ballottaggio sta roba e non ho più rivotato neanche il ballottaggio, ho votato un tipo di una lista civica a sinistra o a destra? Allora, la lista civica che gli frega, sinistra, non era tanto orientata. Ma Salvini ti fa schifo, per esempio, uno come Salvini? Ma vecchia, cioè nel senso violento, una persona che comunque non si pone in maniera, secondo me, giù, cioè una maniera che mi può piacere, che mi può attrarre. A me piacciono le cose belle, cioè lui è brutto, una cosa brutta, non è che è brutto, no, però non è che vedi, brutto. Vedi come però una roba, il suo modo di fare non mi piace, non ha ragione, non... è un modo di fare violento, cioè, chi è uno oggi violento? Invece che ha un modo di fare, come dire, che ti può piacere, uno rotondo che non è spigoloso, uno che usa parole, certo non sono io, che usa parole d'amore, che usa parole come tenerezza, ecco, chi è che ti potrebbe piacere? Nessuno, non c'è nessuno. La politica forse è sangue e merda, perché la politica, ricordati, è sangue e merda. Non c'è proprio nessuno. Caro Calcutta, ti abbraccio, ciao. Ti abbraccio anch'io, ciao. Lores da Vicenza, io ti amo. Noi, pubblico di miserabili, puttanieri, ascoltatori della Zanzara, volevamo dire che siamo con le vecchine padane, con le vecchine col fucile e soprattutto siamo con Lores da Vicenza, perché non se ne può più di queste risorse che pagheranno la mia pensione, ma che se stanno tutto il giorno a fare un cazzo davanti alle scale della chiesa. Forza Lores! Vabbè Cruciani, Lores avrà una certa età, quello che vuoi, ma la sua voce mi arrappa da morire, guarda. Spero che non senta mia moglie, ma la voce di Lores è veramente al top, mi arrappa da morire. Ma non possiamo sostituire la signora Boldrini con la signora Lores della provincia di Vicenza. Ore 2 di questa notte, ascoltavo il podcast della Zanza.